Monelle, racconti giovanili di Devana, il cane. Insomma, stai a cuccia! Come te lo devo dire? Gridò Bina al cane, il quale dopo qualche minuto si alzò di nuovo dalla branda e strisciando in silenzio arrivò fin sotto il materasso dove si era accampata la ragazza. Bina, esasperata, cercò per l'ennesima volta di fare la voce dura, ma il cane non ne volle sapere. Aveva deciso di dormire sul materasso con lei. Come al solito l'avrebbe spuntata. Cercando di reprimere un sorriso, Bina si accomodò come meglio poteva sul materasso e fece posto al suo compagno, che la guardò tra il divertito e il perplesso. Cosa ti agiti a fare? Sembrava dire. Non si sta più caldi in due sotto questa coperta? In effetti non era certo istintivo per Bina tenere gli animali a distanza, ma l'educazione ricevuta in famiglia ha sempre lasciato i suoi strascici. Eppure, per non rinunciare al cane, Bina se n'era andata di casa. Sua madre non tollerava le bestie in appartamento, era allergica ai peli, alle piume, allo sporco. Diametralmente opposta, invece, l'ottica di Bina dava molta più importanza all'amore e alla fedeltà degli animali che all'igiene. Perciò, dopo l'ennesimo litigio a causa del cane, Bina aveva raccattato i suoi pochi beni, più che altro libri, e aveva cambiato casa adattandosi a vivere nell'unico posto dove le consentissero di tenere con sé il suo cane, uno scantinato umido e grigio. Si sa che nei palazzi della gente per bene le bestie disturbano. Quella era per l'appunto la prima notte di Bina nel suo nuovo alloggio, e la presenza calda e confortante del cane sotto le coperte servì a renderle meno triste la situazione. Una cosa era certa. Si sarebbe adattata a vivere sotto un ponte, ma non si sarebbe lasciata separare dal cane. Ciò che la lasciava perplessa era il modo in cui il cane aveva invaso la sua vita. Lo aveva trovato al canile, anzi per la precisione lui aveva trovato lei. Bina andava tutti i giorni ad aiutare i volontari e le volontarie che accudivano gli sfortunati ospiti della struttura municipale. Quindi ne vedeva decine quotidianamente. Era per così dire immunizzata. Ma un giorno varcò il cancello e trovò cane che sembrava aspettarla. Non l'aveva mai visto prima. Doveva essere stato catturato quel pomeriggio stesso. Era seduto in mezzo al piccolo slargo davanti all'ingresso delle gabbie. Appena entrò, Bina lo vide. Era di taglia media. Aveva un bel pelo argentato, molto folto e morbido. Ma ciò che la colpì, rivelandole chiaramente che da quel momento non se ne sarebbe più liberata, fu lo sguardo di cane. Il muso era di un bianco sfavillante e sopra gli occhi una mascherina di pelo argentato era perfettamente disegnata. Gli occhi poi furono decisivi, color bronzo, cerchiati di nero, come fossero stati dipinti con il kajal. Quello sguardo la stregò. Non ne aveva mai visto uno così. A parte la bellezza, gli occhi di cane dicevano: Sei arrivata, ti stavo aspettando. Durante tutta la giornata lui la seguì. Il dramma arrivò al momento dello scontato epilogo. Infatti, Bina decise, come era ovvio, di sfidare le ire materne e di portare cane a casa. Ma fu impossibile riuscire a mettergli il guinzaglio. Dopo un'ora di rincorsi e accerchiamenti per farlo entrare in auto, cane decise che si era divertito abbastanza e con sommo stupore dei presenti saltò dentro da solo. Guardava Bina dritta negli occhi con sguardo consapevole e ammiccante, tanto che lei talvolta se ne spaventava. Era come se volesse comunicarle qualcosa e si avvilisse per l'impossibilità di pronunciare parole umane. Era assolutamente impossibile insegnargli qualcosa, neanche il minimo che ogni cane dovrebbe sapere. Accuccia, seduto, vieni qui. Cane faceva solo ed esclusivamente quello che voleva quando voleva. Mentre dormiva quieto, con la schiena contro la sua pancia e il muso appoggiato alla sua mano, Bina pensava e ripensava. Aveva sempre amato la sua casa, piena di colore e di allegria. Aveva sempre considerato la famiglia come l'unico posto sicuro ed ora, deliberatamente, per causa di un cane, aveva lasciato il suo confortevole mondo e si era trasferita in quello squallido scantinato con i suoi libri, una branda e una coperta. Non riusciva proprio a spiegarsi come avesse potuto prendere una simile decisione. Qualcuno o qualcosa gliel'aveva imposta, aveva sentito chiaramente un ordine imperioso nella testa: non devi lasciare cane per nessun motivo. Quale strano disegno si stava tracciando e che parte lei vi doveva sostenere? Fuori la notte batteva alla porta e lei, rannicchiata sotto la coperta, pensava e pensava. In quella maniera tipica delle ore notturne, a valanga, senza ordine, accavallando i ricordi e i pensieri l'uno sull'altro. Le tornò in mente suo padre, che era morto da qualche anno dopo 13 mesi di agonie, divorato da quella cosa che chiamano cancro. Era morto prima che Bina si rendesse conto di quanto fosse importante per lei. Per molto tempo, dopo la notte del decesso, aveva pensato con rabbia ai loro frequenti litigi. Nei rari momenti di buon umore, però, lui la guardava con gli occhi azzurri come laghi di montagna e Bina capiva quanto l'amasse e quanto fosse incapace di dirglielo. Anche lui aveva visto morire suo padre della stessa malattia, così era rimasto solo con una madre troppo provata dai parti per lavorare e 5 fratelli più piccoli. Aveva 17 anni suo padre. Bina ricordava la voce bassa di quando lui le raccontava che si era trasferito in Inghilterra dopo aver abbandonato gli studi classici e aveva trovato un lavoro come manovale per mandare ogni soldo a casa, tenendo per sé solo il minimo per sopravvivere. Alloggiava in una pensioncina sporca, saltava i pasti e spendeva i pochi soldi che tratteneva per sé in lavanderia per tenere sempre in ordine l'unico vestito elegante che possedeva. La sera, con il suo bell'abito indosso, usciva e si recava puntualmente nel più lussuoso albergo londinese, dove cercava di allacciare relazioni che potessero essergli utili, sfruttando quel fascino particolare che infallibilmente colpiva uomini e donne. Questa manovra gli fruttò l'amicizia con un conte che lo introdusse nel mondo dei ricchi e gli consentì di trovare un lavoro di responsabilità. Fu la morte di suo padre che, costringendolo a diventare adulto da un giorno all'altro, operò in lui il cambiamento, la deviazione che si portò dietro per tutta la vita e che si rifletté soprattutto su Bina con effetti deleteri. Si convinse infatti che un vero uomo deve sempre comandare, urlare senza dare spiegazioni, non deve mai dimostrare debolezza, mai avere un momento di malinconia, mai essere umano. Ogni volta che stava per parlare con lui, Bina ci ripensava. Convinta com'era che a suo padre non interessassero i suoi discorsi. Lei era giovane e per giunta femmina. Cosa poteva sapere del mondo? Quanta rabbia le faceva questo negare spiegazioni e discussioni, questo impartire ordini infischiandosene dei diritti degli altri. Si sa, un pensiero tira l'altro e fu naturale per Bina ricordare quell'ultima notte. Suo padre, ridotto pelle e ossa, senza più capelli, divenuto cieco da un occhio, coi polmoni pieni d'acqua e il viso gonfio come una palla per le iniezioni di morfina e cortisone, stava vivendo i suoi ultimi giorni in ospedale. Quella notte era il turno di Bina per vegliarlo. Lui giaceva immobile e bianco. Bina lo osservava tirare dei radi e piccolissimi respiri, ma doveva avvicinarsi al suo viso per sentirli, tanto erano flebili. Era gelato. A lei sembrava di assistere in stato di trance alla vicenda di qualcun'altra. Non riusciva a realizzare che quella creatura fosse davvero suo padre. Intanto i rumori ormai noti dell'ospedale segnavano il trascorrere delle ore e lei, seduta al capezzale del padre, lo guardava, assente. A metà della nottata entrò un'infermiera, gli tastò il polso e disse: «È in coma». Poi le chiese se volesse il medico di turno per cercare di rianimarlo con la respirazione artificiale e altre cose che Bina non capì. Rispose soltanto: «Lasciatelo stare!» Quando l'infermiera se ne fu andata, Bina si alzò, trasecolata, e con movimenti ormai esperti sfilò dal naso di suo padre le cannucce dell'ossigeno e chiuse la bombola, gli levò la flebo dal braccio e tornò a sedersi. Dopo circa mezz'ora di respiri sempre più esanimi, i polmoni del malato smisero di pompare. Lei ricordava di aver passato quegli ultimi minuti a parlargli vicino all'orecchio, senza neanche sapere se lui potesse sentirla. Gli diceva di non aver paura perché stava per andare in un posto dove non avrebbe mai più sofferto. Di là, gli diceva, non c'è più corpo, non più materia, non più limitazioni, non più bisogni. Di là, diceva piano Bina a suo padre, l'anima è libera da ogni legame, libera di esprimere tutto. La sua potenzialità. Di là la luce non ha contorni da distinguere e in quella luce lo spirito nuota, non felice, non infelice, finalmente in pace, senza più nulla di cui essere fiero o imbarazzato o triste, senza più nessuno da odiare o da amare, non ci saranno più mancanze né corruzioni. Bina continuò per interminabili minuti a parlare a bassa voce all'orecchio di suo padre, tenendogli la mano. Poi si accorse che dal naso di quella creatura stesa nel letto non usciva più neanche un filo d'aria. Allora si alzò e andò a chiamare l'infermiera. Tutto il resto era confuso. Il ricordo di quella notte non la lasciava mai. Via via che passavano i mesi e gli anni, un dolore sordo la lacerava e il bisogno di suo padre a volte le faceva sentire male nelle ossa. Beh. Il senso della vita è non darle troppa importanza, pensava Bina, cercando di consolarsi. Vivere con passione e coraggio, ma senza pensare che vivere sia la meta. Assaporare beni e piaceri senza considerarli dovuti. Vivere gioie e dolori con la stessa forza e accettare la fine di cose e persone che amiamo con calma, per poter imparare ad accettare anche la fine nostra con la stessa calma. Bina ripeteva queste parole come fossero una cantilena, per cercare di convincersi del loro senso. Intanto, accanto a lei, Cane dormiva. Il suo calore era confortevole e lei gli fece una carezza, mentre i suoi pensieri continuavano ad accavallarsi ai ricordi di suo padre e le sue labbra ripetevano quel taumaturgico pensiero. Cane si mosse e le leccò la mano. Finalmente, a poco i ricordi diminuirono la loro velocità e Bina scivolò nel sonno. Appena Cane sentì che il respiro di lei si fu fatto pesante, spalancò gli occhi e drizzò le orecchie in posizione di allerta. Bina sognava sempre e spesso sognava suo padre. Una volta in sogno lui le aveva detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa in suo potere per proteggerla. Poi era scomparso. Anche adesso stava sognando, era inseguita, qualcuno la voleva uccidere, doveva salvare la sua famiglia, doveva correre da loro, i piedi però affondavano nel pantano, lei doveva gridare, ma la voce era un rantolo inudibile. A un tratto il buio si rischiarò e la voce di suo padre fu chiara come una musica. La chiamò con il soprannome che solo lui usava. Papà, sei tu? Come hai potuto arrivare qui se sei morto? Zitta, non ho molto tempo. È difficile spiegare, devi ascoltarmi con molta attenzione. Ma cosa devi spiegarmi? Nel corpo del cane c'è il mio spirito. Nella dimensione dove mi trovo ora si è liberi dagli impedimenti corporali, si conosce il passato e il futuro. E sì, beh, certo, anche se non è possibile capirne il senso, rispose Bina. La ragione di tutto è nota solo di qua. Ma gli spiriti, ogni volta che tornano qui, devono decidere in quale corpo vivere di nuovo e quale tipo di esistenza condurre. Io so che sei in pericolo e per aiutarti ho scelto di rivivere in cane, dato che un umano avrebbe impiegato troppo tempo a crescere e non sarebbe stato pronto nel momento del tuo bisogno. Cane, invece, ha 2 anni, è già adulto. Ma perché ti preoccupi per me, papà? Anche da spirito, credevo che gli spiriti non avessero sentimenti. Solo quelli che lasciano in sospeso qualcosa di importante possono riallacciare legami con la vita passata per portare a termine l'opera. Mentre ero moribondo, la tua voce mi ha aiutato ad uscire dal corpo senza dolore e ora sono io qua per tener fede a quell'impegno, ricordi? Avrei fatto qualsiasi cosa in mio potere per aiutarti e così, da questa dimensione, ho l'occasione di esserti vicino, quanto da vivo non sono stato mai. Ma lasciami finire, rimane poco tempo. La città sta per saltare in aria. La centrale del gas ha da parecchi giorni una perdita di cui nessuno si è accorto. Tra Tra un momento qualcuno entrerà nel locale più saturo, chiuso da tempo. Senza pensare si accenderà una sigaretta. L'esplosione innescherà un effetto a catena attraverso tutte le tubature e gli impianti cittadini collegati con la centrale. Ora devo andare. Non potrò più venire a trovarti da questa sera, ma gli anni che abbiamo vissuto insieme non sono stati inutili. Quelle esperienze ci serviranno nelle prossime vite, perciò non rimpiangermi più, io non sono morto. Arrivederci. Bina si svegliò di soprassalto, fradicia di sudore. Brividi di freddo la scuotevano con violenza. Si sentiva dolorante, le bruciavano gli occhi, la schiena e le parole di suo padre le rimbombavano nella testa. Si alzò dalla branda per cercare di scacciare quella sensazione di angoscia, mise i piedi per terra e urlò. Sotto di lei non c'era il pavimento, ma erba. E il buio dei primi istanti lasciava il posto a mano alle stelle sopra la sua testa. Il freddo le ghiacciava il sudore lungo la schiena. Era in aperta campagna. Terrorizzata, Bina camminava vorticosamente. Qua e là, cercando di capire dove fosse e come ci fosse arrivata, non c'era traccia di cane. Pensò di non essersi ancora svegliata e cominciò a darsi delle sberle. Ma la realtà intorno a lei non cambiava. Chiamò, prima con dolcezza, poi sempre più angosciata, gridava, correva e le lacrime la accecavano. Stava tornando alla branda, senza aver avuto dal suo compagno quadrupede alcun segno di vita, quando urtò contro qualcosa di morbido. Abbassò lo sguardo. Era cane, steso per terra, stroncato dallo sforzo per averla trascinata fino lì. Tra le fauci stringeva ancora i lembi del materasso. Bina stava per mettersi a gridare, annientata dalla paura, quando un enorme boato, una luce da apocalisse dietro di lei, la fece voltare con il cuore in gola. In lontananza, la tremenda esplosione lasciò il posto a fiamme alte come palazzi che si dimenavano impazzite. A qualche chilometro di distanza, la città stava bruciando. Fine.